compagna Margolina, vado fritto la parola. La passia dal moro, da morta a moro gara, e la bella bionda bianca a me. Yeah.